Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che cosa succederà nel 2018? Ecco, in quell'anno, ci manca poco, il settore della costruzione di apparecchiature elettroniche, cioè della costruzione di telefonini, di PC, di reti di comunicazione, sarà il primo in cui i robot saranno meno costosi della manodopera umana. Voi potrete dire, notizia banale, il robot costa meno dell'operaio. Sì, ma per mansioni ripetitive. Immaginatevi invece che cosa significa costruire un telefonino, costruire un computer, costruire un PC. Ecco, in quell'anno i robot potranno fare tutto e costeranno meno degli operai. Lo stima uno studio di Boston Consulting Group, la quale ha studiato tutti i principali settori della manifattura, calcolando quando avverrà il sorpasso di robot contro umani. Per esempio, nel settore dell'arredamento, il sorpasso è previsto nel 2023. Ci saranno dei robot che potranno fare un mobile finito e anche su misura completamente da soli. Nel giro di 10 anni, stima Boston Consulting Group, quasi tutte le attività umane potranno essere svolte da robot in modo più economico e più efficiente. E noi che cosa faremo? La domanda è legittima nell'epoca del 4.0, cioè della fabbrica interconnessa, degli oggetti che comunicano fra loro, dei chip collocati ovunque che trasmettono informazioni a un elaboratore centrale e regolano un flusso ininterrotto di merci e di informazioni, nell'epoca in cui le fabbriche si trasformano in software house. Insomma, come sarà il lavoro nell'epoca del 4.0? Ne parliamo oggi con il professor Patrizio Bianchi, che è un amico di questa trasmissione ed è uno dei maggiori economisti industriali di questo paese. A dire la verità, gli economisti industriali in questo paese non sono molti. L'industria non è molto studiata. Ma non è che lui brilla perché sono pochi, lui brillerebbe comunque e in più si interessa anche di lavoro, essendo ormai da quasi 10 anni assessore al lavoro della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno professor Bianchi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo lavoro nell'epoca del 4.0 come sarà? Sarà un lavoro che sarà molto diverso dal passato, perché metterà in evidenza quel bisogno di creatività che dovrà essere di più di quella dei robot. Dall'altra parte vi saranno però contemporaneamente anche altri lavori che saranno meno creativi di quello dei robot, quindi un segno che sarà importante per lo sviluppo, per i territori, per i paesi, e capire se si vorrà essere nel primo gruppo o nei secondi, cioè, come abbiamo detto tante volte, nella testa che disegna i robot e prefigura nel tempo come saranno i prodotti, oppure si giocherà su quella parte che sarà sempre più marginale di coda. Ma noi come Italia abbiamo deciso che paese vogliamo essere? Guardi, noi come Italia abbiamo in giro per il mondo l'immagine forte, fortissima, anche al di là della nostra capacità, di essere considerati il posto creativo per eccellenza. Questa immagine di un made in Italy fatto di stile, di qualità, di cultura, di storia, è molto più forte in giro per il mondo all'estero di quanto non sia in Italia. Tutto il mondo si aspetta che l'Italia si specializzi di più in quel tipo di produzioni che sono contenitori esse stesse di due cose fondamentali che sono dentro l'industria 4.0. Uno, la possibilità di avere dei prodotti che possono essere personalizzati, e per personalizzare bisogna capire i bisogni delle singole persone. Secondo, di quei prodotti di fascia altissima che in realtà sì, possono essere fatti con i robot, perché in fondo i robot possono fare delle tipologie anche di mansioni che ormai anche l'uomo non riesce a fare con la stessa perfezione, ma prodotti che però contengono quell'elemento di qualità aggiunta, quel valore aggiunto che in realtà viene percepito ancora fatto a mano, dove il fatto a mano vuol dire quel di più che io ci posso mettere. Ecco, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa significa personalizzazione di massa e perché l'Industry 4.0 comporta la personalizzazione di massa, perché magari chi ci ascolta non lo sa. Ah, questo è un punto importante. Guardi, noi veniamo da una storia in cui noi avevamo dei modelli di che cosa voleva dire la produzione. Un tempo c'era l'artigiano, l'artigiano che ti faceva il vestito su misura. Di fatto faceva per ogni tipologia di prodotto un solo elemento, e da quello vicino anche all'arte. L'artigiano andava per fare un vestito da un artigiano perché mi faceva un vestito per me, che come tutti sanno sono largo di fianchi, ho la pancia un po' grossa e quindi ho bisogno non solo di un adattamento, ma proprio di un vestito che sia fatto per me. Poi c'è stato il momento in cui si pensava che i vestiti potessero essere fatti tutti uguali, tutti standardizzati. C'è stata un'epoca in cui grandi magazzini vendevano tutto sommato vestiti più o meno adattabili, ma cioè quindi lei si doveva adattare al vestito, aveva per i vestiti, per le automobili, per gli elettrodomestici. Poi c'è stato un altro momento in cui si pensava che su dei vestiti standard si potevano fare più o meno delle conformazioni, all'epoca si chiamava dei drop, in cui c'era la taglia 50 forte o la taglia 52 debole. Mm-hmm. Con le nuove metodologie di produzione lei di fatto può fare un vestito, un'automobile, un farmaco. Ecco, ma i vestiti su misura fatti in modo elettronico ci sono già. Ma questi sono fatti, mi perdoni, lei prima dà le sue caratteristiche, così come quando va dal medico e deve avere pastiglie per la pressione, un conto è prendere pastiglie, un conto è che ad ognuno viene fatta una pastiglia adatta alla sua tipologia di pressione. Questo è così, il vestito viene fatto sapendo qual è la sua richiesta, c'è un'esplorazione dei bisogni e dei bisogni emergenti, dei bisogni individuali, poi parleremo dei bisogni collettivi, che finora non era ancora nelle disponibilità dell'industria. Ma come mai il 4.0 spinge verso la personalizzazione? Cioè, perché il fatto che io metto un chip ovunque, questi chip trasmettono informazioni, rende più facile e lo fa quasi diventare paradossalmente uno standard il fatto di personalizzare? Perché? Esatto, il paradosso. Com'è il legame tra questo? Come si legano i due concetti? Guardi, il concetto è un passaggio chiave, perché le dicevo, nella base dell'industria fordista c'è cioè questa idea dell'economia di scala, cioè più produci in grande e più si riducono i costi. Il paradosso su cui stiamo andando oggi a lavorare è questa idea di produrre grandi numeri, però fatti ognuno di prodotti differenziati e specificati sulla domanda. Perché è possibile? Perché noi abbiamo due cose fondamentali. Uno, abbiamo un sistema che permette di tenere i dati di tutti e di ognuno. Lei pensi adesso alla quantità enorme di dati che ad esempio viene sfornata usando ad esempio i social. Mm-hmm. Lei sa che questo sta diventando una delle materie più delicate. Ma infatti i big data sono molto legati al tema della fabbrica. Sabato scorso abbiamo fatto appunto una trasmissione sul tema big data e fabbrica. Sì, ma anche sull'altro lato. Big data e domanda, perché quando si parla di fabbrica 4.0 si prende sempre sul lato tecnico, tecnologico dal punto di vista dell'offerta. Le rivoluzioni industriali non si fanno mai con metà mela è l'offerta, ma l'altra metà mela è la domanda. Big data tiene dentro anche i dati della domanda, tanto è vero che uno dei problemi che noi oggi affronteremo e dovremo affrontare in futuro sarà il tema del come stanno insieme la possibilità di accumulare grandi dati sulle persone, magari anche offerte in termini volontari, tramite Facebook o tramite uno di questi social, con il diritto alla privacy. Senta, allora, torniamo però all'esempio del vestito. Io anch'io ho delle misure che non sono standard, perché le mie spalle, ad esempio, non corrispondono alla misura dei pantaloni. Io sono stato a Bergamo, dove mi hanno fatto un vestito su misura, fantastico, tutto fatto a macchina, perché c'è uno scanner che scansisce tutte le mie misure, le trasmette alla macchina e la macchina ti fa il vestito, e francamente è molto vicino a quello che potrebbe fare un sarto con costi minori. Poi ho anche presente l'esempio dei denti. L'industria dentale va verso la manifattura 3D. Il dentista ti infila in bocca uno scanner, questo scanner prende le misure dei tuoi denti al decimo di millimetro e le trasmette alla stampante 3D che ti fa le protesi. In tutto ciò l'odontotecnico va un po' fuori gioco. Quindi tutti questi macchinari, questi scanner, la stampante 3D, alla fine l'uomo lo tolgono un po' di mezzo. No, guardi, questo tema della la macchina che distrugge il lavoro è un tema che sta dentro a tutta la storia del pensiero economico. C'è un capitolo del libro di Davide Riccardo, siamo nel 1813, che si domanda esattamente questo: ma saranno i telai meccanici che distruggono i filatori inglesi oppure no? Quindi da sempre l'evoluzione dell'industria si è portata dietro un problema di macchine che distruggono dei lavori esistenti, ma sono sempre emersi nuovi lavori che in un qualche modo non solo sono in gara con la macchina, come quel vecchio film in cui il cavallo cavalcato dal cowboy si metteva in corsa con la macchina a vapore, ma in un qualche modo hanno fatto emergere dei nuovi bisogni. Chiaro, però facciamo l'esempio del dente, che è quello ancora più chiaro rispetto al vestito, perché il vestito, comunque il vestito del sarto, avrà sempre degli elementi di qualità che quelli della macchina non potranno avere. Nel caso del dente, la stampante 3D, di fatto l'odontotecnico non serve più a nulla. Non serve più a nulla, però si aprono dei nuovi bisogni. Oggi, ad esempio, la gente che ha bisogno di un dentista e molto di più di quella di un tempo. Una volta, se anche lei era Lorenzo dei Medici e aveva mal di denti, era bloccato. Mi cavavano il dente e poi mangiavo le minestre. E poi moriva magari per le infezioni. No, è che, come le dicevo prima, se lei prende il problema della rivoluzione industriale non solo sul lato dell'offerta, ma anche sul lato della domanda, lei vede che è la domanda che si modifica, perché la rivoluzione industriale porta con sé anche degli enormi trasformazioni. Certamente, perché probabilmente non ci saranno più gli odontotecnici, ma ci sarà maggiore attenzione alla cura dei denti, perché molte persone ancora non li curano. Quindi bisogna mutare le competenze, e di questo ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Vi daremo anche delle indicazioni pratiche di come fare, però ora avvisi sul traffico e pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea col professor Patrizio Bianchi, che è uno dei più grandi economisti industriali di questo paese, e oggi parliamo di come cambia il lavoro nell'epoca del 4.0. Stavamo facendo l'esempio dei dentisti e degli odontotecnici, perché arriveremo alle stampanti 3D che fanno dei denti precisissimi, ci sono già, tutto sta a saperle usare, e la figura dell'odontotecnico sarà obsoleta. Dicevamo appunto, per far capire come funziona, ci saranno più dentisti perché ci sarà più attenzione alle cure dentarie, quindi l'occupazione si sposterà. Sì, però faccio una nota. Ci saranno più dentisti, ma non i dentisti di oggi, perché il dentista sarà un operatore che dovrà usare macchine molto più complicate, ma ad esempio dovrà usare anche materiali molto più complessi e di volta in volta specificati per il bisogno. Quindi sarà una persona che dovrà operare in un contesto organizzato, quindi non più lo studio del dentista solo, lui e la sua infermiera. Saranno probabilmente delle strutture molto più complicate, che avranno delle macchine molto più organizzate, che faranno questo lavoro che lei ha detto prima, cioè le stampanti scanner specificate, ma saranno anche dei luoghi in cui la connessione con la ricerca e con la ricerca di base, quella proprio sui materiali, sarà molto più forte di prima. Quindi se cambierà lavoro l'odontotecnico, cambierà anche il lavoro del dentista. Però il problema è che l'odontotecnico andrà a casa, il dentista, se si evolve, no. E questo vale anche per tutta una serie di altri lavori, per il lavoro in primis degli operai. Con i robot che saranno così capaci di fare operazioni complesse, molti operai non ci saranno più. È vero che ci sarà l'operaio che controlla il robot e che sarà un tecnico che imputa i dati e che parla col cliente, ma comunque sarà magari una persona proprio diversa, e saranno di meno. E dunque, di tutte queste masse di gente, che cosa ne facciamo? Sì, c'è un altro problema che io vorrei aggiungere. Come si è visto in passato, in realtà da una parte si distrugge lavoro, da una parte si crea lavoro. Ma non per gli stessi personaggi, però. No, ma le sto aggiungendo una cosa in più. Da una parte si distruggono dei lavori, da un'altra parte si creano dei lavori. Ma la cosa fondamentale è che non è detto che siano nello stesso posto. Non solo le stesse persone, ma neanche lo stesso posto. Quindi il tema della transizione al lavoro, che di fatto noi oggi vediamo come un punto presente, in realtà sarà un punto fondamentale ancora nei prossimi anni, perché la transizione non sarà breve. Quindi anche quando si dice ma il vero problema è come stanno insieme, che vediamo dei territori che insieme crescono ma hanno dei punti di crisi sempre più rilevanti, e perché fanno parte dello stesso fenomeno. La soluzione sarebbe quella di riuscire ad accelerare i processi di transizione in tutto il contesto, cioè avendo in mente che tutto il contesto è in movimento, e dall'altra parte però considerando il tema della formazione sia di nuovi che però anche di persone già presenti, perché i cambiamenti sono più veloci della vita di una persona, come una parte fondamentale delle politiche industriali. Le politiche industriali non possono riguardare soltanto le macchine, gli ammortamenti e gli interventi anche per incentivare la sostituzione delle macchine, ma in questo caso gli interventi sul capitale umano sono, e sono nel dibattito internazionale, un elemento sempre più fondante proprio delle politiche industriali. Senta professore, il tema della politica industriale mi appassiona tantissimo. Ecco, segnalo anche ai nostri ascoltatori che io ho appena scritto un libro che si chiama Industriamo l'Italia, che parla proprio di queste cose. Però il tempo è tiranno, quindi direi che ne parliamo in una puntata successiva. Restiamo sul lavoro. Il singolo ascoltatore che è in questo momento in radio e che dice oddio vado a casa, che faccia l'operaio, che faccia il dentista, che faccia un altro lavoro, ecco, noi cosa diciamo alle persone? Beh, guardi, noi alle persone diciamo tre cose. Le diciamo perché mi sembra che sia necessario dirlo. Innanzitutto, non è detto che tutti andiamo a casa. Vanno a casa coloro che si trovano oggi a dover fare attività, lavori, imprese in cui non spiccano delle identità. Cioè, paradossalmente, in epoca di globalizzazione i territori contano più di prima, cioè conta più di prima la capacità di avere un territorio in cui si incrociano le attività di produzione, le attività di ricerca, le attività di esplorazione della domanda, cioè quelle che in un qualche modo ricompattano tutte le fasi di un ciclo di produzione che non parte più da quando il cancello della fabbrica si apre per far entrare le materie prime, i pezzi di acciaio, ma parte dalla ricerca, parte dalla scuola, parte dalla formazione. Dall'altra parte la fabbrica non si finisce più quando vado fuori i pacchi di prodotti finiti, ma arriva fino al cliente, fino ai servizi al cliente. Aumenteranno sicuramente i servizi alla produzione. Quindi vuol dire che chi ci ascolta dovrebbe forse essere un po' imprenditore di se stesso e cercare anche per sua iniziativa di formarsi e di specializzarsi. Sì, ma credo che debbano tutti assieme ragionare di più su che cosa vuol dire la trasformazione dei sistemi produttivi. Quei produttivi oggi sono paradossalmente più lunghi e più larghi di prima, cioè partono, come dicevamo prima, dalla ricerca, dall'università, arrivano a casa delle persone. Quindi questa idea che parte di industria è il servizio sarà uno degli elementi che non solo permetterà di recuperare posti di lavoro, ma saranno posti di lavoro trasformati in ragione della tipologia di competenze e di capacità che siamo capaci di mettere in Quindi dentro. Che messaggio diamo a chi ci ascolta? Diamo un messaggio importantissimo, diamo un messaggio di ragionare di più su quello che si sta facendo, di ragionare sulle competenze che uno ha e quindi anche su come arricchire e trasformare le proprie competenze, quello che si è, cioè di sentirsi in movimento. E certo, perché il rischio è altissimo. Senta, il tempo è tiranno, però questa intervista con lei mi ha fatto venire voglia di fare un'altra puntata sulla politica industriale nell'epoca del 4.0 e quindi gli ascoltatori avranno ancora modo di approfondire insieme a lei questi argomenti. Intanto la saluto. Grazie, grazie a tutti. Ancora è in movimento. In movimento, perché altrimenti il rischio è veramente alto. Alto per i singoli, alto per tutti e alto per il paese. Va bene, dobbiamo chiudere, professore. Saluto gli ascoltatori, ci sentiamo domani alle ore 13:10.